Non ti scordare di te. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci è imperativo presente del verbo star bene. Per prevenire influenza, polmoniti e altre malattie. Vacci a vaccinarti, per favore. Vacci a vaccinarti. Non ti scordare di te. Campagna di Happy Aging per la vaccinazione over 60. Ad alta voce. Tommaso Ragno legge Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini. Decima puntata. La vedova era una donna d'una quarantina d'anni. Aveva bella carne addosso e abitava al primo piano in una casa di due o tre grandi stanze dal soffitto alto. «La chiamano la vedova», disse mia madre, «ma non è una veramente vedova. È una che è stata mantenuta di un gran signore». «E perché si fa le iniezioni?» dissi io. «Perché è una signora», mia madre rispose. «I signori fanno le iniezioni e lei si è abituata con loro». Ma forse ha un po' di tisi anche. Era una donna piacente ad ogni modo e aveva bella carne addosso. Sembrava vivesse sola nelle sue grandi stanze, bene lei stessa ad aprirci. «Vi aspettavo, Concezione», disse. «Ho saputo che vi è arrivato un figlio». «È lui?» La casa, dal portone in su, aveva un forte odore, come se tutto l'autunno vi si fosse tenuto a fermentare del mosto. Questo è l'odore delle case non povere di città, in Sicilia, stucchevole, non inebriante, e compagno carnale del buio. La vedova ci accolse con chiasso, ridendo, e aveva il petto grande e la voce ricca di petto dalle grandi mammelle e gli occhi neri, i capelli neri. «Suppongo che ho fatto bene a portarlo», disse mia madre. «Che bel figlio, no?» «È alto e forte», la vedova disse. «Degno di voi, Concezione». E rideva con chiasso. Ci introdusse nelle sue stanze che odoravano come il portone e la scala, di mosto, ma anche di cannella un po'. Ed erano vecchie, senza troppi mobili, e senz'altro che ventagli di cartoline illustrate alle pareti, e oscure piuttosto, senza molta luce, perché i balconi davano su un giardinetto chiuso, a tramontana. Mia madre continuò a parlare di me. «Come avete saputo che mi è arrivato?» disse. «Suppongo che avrei fatto male a non portarlo». «Oh!» rispose la vedova. «Sarei rimasta con la curiosità di conoscerlo». Essa volle per forza offrirci marsala e biscotti. Dalla tavola dove ce li offrì si vedeva la casa intera, due o tre grandi stanze con molte porte, tutte spalancate, e con una tavola in ogni stanza e un immenso letto dalla coltre rossa in una. «È così», diceva la vedova, e rideva con chiasso. Mi rivolse qualche domanda sull'Alta Italia e a mia madre domandò se mi aveva portato con lei in tutte le case del giro. «Naturalmente», disse mia madre, ed era soddisfatta di avermi imposto in tante case. Soggiunse che aveva voluto mostrarmi come faceva bene l'iniezione e la vedova rise. Mi guardò, me uomo, con occhi neri, e con voce ricca di petto dalle grandi mammelle, disse «Ma con me no, Concezione». «Che cosa con voi no?» disse mia madre. «Con me non glielo mostrate come fate bene l'iniezione». «Perché no?» disse mia madre. E la vedova rise, disse «Io non mi lascio fare l'iniezione davanti a lui». «Perché no?» disse mia madre, ed era armata di volontà di impormi. «Perché no?» disse. «Perché non occorre, Concezione», la vedova rispose. «Qui non occorre», disse. «Ci sono tante stanze. Può aspettare senza che vada in strada». «Ma non è questo», disse mia madre. «Io voglio che veda come faccio l'iniezione». «L'ha già visto abbastanza volte», la vedova rispose. «Non occorre che lo veda anche qui». E si rivolse a me, ridendo, disse «Vero, signor Silvestro?» «Sì, suppongo», dissi io. «Che cosa, sì?» chiese allora a me mia madre. Non vuoi vedere come faccio l'iniezione alla signora? Oh, sì, io risposi. Ecco, disse mia madre, vuole vederlo. Ma Concezione, esclamò la vedova, io non voglio che mi veda. Mia madre rise. Disse, ma è mio figlio, è come me stessa. Ma è un giovanotto, la vedova disse. E mia madre disse, credete che non abbia mai visto donne in vita sua? La vedova allora non disse più nulla. Rise e si arrese, e con un gesto verso di me disse, ridendo, è lui che aspetta, il maligno. Si stese sul letto, e mia madre la scoprì. Questo è un sopruso, Concezione, disse sul cuscino ridendo. E mia madre le cacciò l'ago nella carne, con gusto. Poi mi guardò, vittoriosa, e accennando a quella carne disse, vedi com'è ben fatta. La vedova si agitava sul letto ridendo. Concezione, diceva, e ha quasi 40 anni, disse mia madre. Io feci un complimento e la vedova gridò, oh, signor Silvestro! S'indurì, voleva alzarsi, ma mia madre la tenne ancora giù, scoprendola anzi più in alto. Aspettate che vi veda bene, disse, e a me. Guarda, Silvestro! Ma è un sopruso, disse la vedova, e si dibatteva, voleva alzarsi. Alla fine mia madre la lasciò alzarsi e la vedova, ridendo e rossa in faccia, disse a me, siete un gran maligno, signor Silvestro. Ci salutò cordiale e mia madre e io si uscì sulla strada, nella musica delle zampogne e nel sole, di faccia al sole che tramontava e si rise. E mia madre disse che la vedova aveva fatto tante storie perché era stata una mantenuta e non si sentiva in una posizione regolare. Ma è una buona donna, disse. Ed è fatta bene. No, soggiunse. E mi guardò, mi strizzò l'occhio e intanto attraversavamo la strada. Oh, sì, io dissi. E ha una fresca carnagione, soggiunse mia madre. Oh, sì, io dissi. E mia madre è una delle meglio per la sua età qui in paese. E io, suppongo. E mia madre, ma ve ne sono meglio di lei alla sua età. Io ero meglio di lei, disse. E non credo sfigurerei troppo al suo paragone ora che ho 50 anni, disse anche. Oh no, dissi io. Sono sempre in gamba, vero? Disse mia madre. Oh sì, dissi io. Non hai nemmeno un capello bianco. E mia madre, dovresti vedere come sono fresca sotto. E io, puoi andare fiera di te. Naturalmente, mia madre esclamò. Lo dicevo a tuo padre. Dovresti andare fiero di una moglie fresca come me alla mia età. Ma lui non capisce niente delle donne. Non parlava che di mani fini e occhi e via di seguito nelle sue poesie. Immagino che non potesse parlare di altro nelle poesie, io dissi. Bene, ma avrebbe potuto considerare il resto prima di parlare, disse mia madre. Sarebbe stato fiero di me se avesse considerato il resto. Mio padre era così fiero di me e delle altre figlie. Diceva che nessuna ragazza aveva la schiena ben fatta come le nostre in tutta la Sicilia. Ah, era fiero di me, mio padre. Più in alto, di faccia al sole che tramontava, eravamo arrivati a un altro portone come quello della vedova, sebbene più piccolo e con meno pretese, e con uno dei martelli rotti. «Ora andiamo da una mia amica», disse mia madre. «Per fare l'iniezione anche a lei», io chiesi. «Sì», mia madre rispose. «Voglio che tu veda com'è fresca anche lei, forse più della vedova, e ha quasi 40 anni anche lei». «Ed è vedova anche lei», io chiesi. Voglio dire, chiesi, è stata mantenuta di un gran signore anche lei? Oh no, mia madre rispose, è una donna maritata, ha 4 figli. Entrammo dal porticino tarlato nell'andito E anche lì per le scale c'era l'odore vecchio di mosto, caratteristico delle case non povere in Sicilia. Ma in casa, poi, c'era molto meno. Era tutto troppo vecchio in casa, mobili, mattoni del pavimento, tende, coperte dei letti. Tutto troppo vecchio e morto. E si sentiva la polvere più che altro. «Perché si fa le iniezioni?» chiesi io. «È malata?» «No», mia madre disse. «Crede di essere un po' anemica». «E si lascerà fare l'iniezione davanti a me?» dissi io. «Come no?» disse mia madre. «Ma se non vuole non insistere», io dissi. «Ma sì, che vorrà», disse mia madre. Entrammo in casa introdotti da un bambino di 5 anni che ci aprì la porta. Altri 2 bambini ci vennero incontro, uno forse di 7 anni e uno di 8 o 9, coi capelli lunghi e lunghi grembiuli per cui non si sapeva se erano maschi o femmine. «Concezione, Concezione!» urlavano. E ci portavano avanti e indietro per la casa, tutte stanze molto buie. E poi da un terrazzino ci venne incontro una ragazza di 15 o 16 anni, che si mise a dire anche lei «Concezione! Concezione!» In ultimo ci venne incontro la signora amica di mia madre. «Concezione! Concezione!» disse. Era una donna non molto grande, niente affatto anemica di aspetto, e anche tonda, e piacevole, di bella carne e giovane. Si buttò su mia madre e la baciò con le braccia al collo come se non la vedesse da mesi. E tra i bambini che saltavano e gridavano disse «Lo sapevo che avresti portato tuo figlio!» «Hai saputo che mi è arrivato?» disse mia madre. «Sì!» l'amica di mia madre rispose. «L'ho saputo subito e così ho pensato che me l'avresti portato. Che bel figlio!» Urlavano i bambini, parlava la ragazza ed eravamo in una stanza con letto, a 2 posti e altissimo. E mia madre disse alla sua amica «Avanti, buttati sul letto!» «Me la fai davanti a lui?» disse l'amica di mia madre. «Perché? Vorresti mandarlo fuori?» esclamò mia madre. «Non dico questo», l'amica di mia madre rispose. Tutti i bambini erano nella stanza, la ragazza pure, e la signora amica di mia madre disse «Mi mette un po' soggezione, è così grande!» Mia madre rise e lei rise con mia madre, anche la ragazza rise. «Ma l'ho fatto io così grande», disse mia madre. «Non devi avere soggezione». L'amica di mia madre si buttò allora sul letto. «Immagino che ha già visto tante donne», disse. Si scoprì da sé e mentre aspettava che mia madre la pungesse disse «Immagino che ne ha viste più appetitose di me». I bambini saltavano intorno, gridavano e mia madre non era ancora pronta a pungere e disse «Avevi paura di fargli appetito». Rise. E la ragazza rise con lei, e l'amica di mia madre, mentre i bambini saltavano intorno, rise contro il cuscino ed esclamò «No, Concezione! So bene che potrei quasi essere sua madre!» Allora io dissi «Non credo che questo conti!» Aveva una bella carne. Volevo farle un complimento. E lei gridò «Che cosa intende dire?» E mia madre gridò «Vuoi dire che ti fa appetito?» «Perché no?» io dissi. «Oh!» gridò l'amica di mia madre ridendo. «Oh!» gridò mia madre ridendo. La ragazza rise con loro due e la iniezione fu fatta. L'amica di mia madre si alzò a parlarmi ridendo con un dito minaccioso sotto la mia faccia. «Sapete cosa siete?» disse. «Siete un impertinente». Appena fuori mia madre mi chiese «Davvero ti ha fatto appetito?» «Perché no?» risposi io. Esclamò mia madre e rise. «Una donna che ha 10 anni più di te», disse, e soggiunse «Anche la vedova ti ha fatto appetito». «Ma certo», io risposi, «anzi di più». «Oh», esclamò mia madre, rise e disse «Se sapevo non ti avrei lasciato vedere». Ma era gongolante entro di sé, in qualche modo vittoriosa. E arrivammo da quella strada in salita su una specie di spiazzo aperto su tutta la valle e il sole che tramontava. Mia madre guardò il sole, poi mi chiese «Quando è stata la prima volta che hai visto com'è fatta una donna?» C'era sempre musica di zampogna nella grande aria fredda, lucente di sole. Ed era viva ora, non neve, non nuvola, vicinissima. E in essa c'era scampanio di campane da capre, scampanio pieno, non più tintinnio sparso, era come se greggi e greggi passassero dietro le case. «Quando è stato la prima volta?» io dissi. Mi misi a pensare, cercando di ricordare per rispondere a mia madre. «Sì, la prima volta che hai visto com'è fatta una donna», disse mia madre. E io cercai di ricordare. Ero lieto di ricordare. E mi era facile. «Credo di averlo saputo sempre com'è fatta una donna», dissi. «Anche a 10 anni, quando eri un monello che saltava giù dal treno in corsa», esclamò mia madre. «Sì», dissi io. «Lo sapevo bene com'è fatta una donna a 10 anni». «Anche a 7 anni», esclamò mia madre. «Anche a 7 anni, quando eri un marmocchio e sedevi in grembo alle mie amiche». «Credo di sì», io dissi. «Anche a 7 anni». «Dove eravamo quando avevo 7 anni?» Mia madre fece il conto. «Era il primo anno della guerra», disse. «Eravamo a Terranova. Eravamo in una casa cantoniera a 1 chilometro dal paese». «A Terranova», io dissi. «Avevo letto Le mille e una notte e tanti libri là, di vecchie storie, di vecchi viaggi, a 7 e 8 e 9 anni. E la Sicilia era anche questo là. Mille e una notte e vecchi paesi, alberi, case, gente di vecchissimi tempi attraverso i libri. Poi avevo dimenticato nella mia vita di uomo, ma lo avevo in me e potevo ricordare, ritrovare. Beato chi ha da ritrovare. È una fortuna avere letto quando si era ragazzi, è doppia fortuna avere letto libri di vecchi tempi e vecchi paesi, libri di storia, libri di viaggi e Le mille e una notte in special modo. Uno può ricordare anche quello che ha letto, come se lo avesse in qualche modo vissuto, e uno ha la storia degli uomini e tutto il mondo in sé, con la propria infanzia. Persia a 7 anni, Australia a 8, Canada a 9, Messico a 10, e gli ebrei della Bibbia con la torre di Babilonia e Davide nell'inverno dei 6 anni, califfi e sultane in un febbraio o un settembre, d'estate le grandi guerre con Gustavo Adolfo, eccetera, per la Sicilia e Europa, in una Terranova, una Siracusa, mentre ogni notte il treno porta via soldati per una grande guerra che è tutte le guerre. Io ebbi questa fortuna di leggere molto nella mia infanzia, e a Terranova la Sicilia significa anche Baghdad e Palazzo delle Lacrime e Giardino di Palmizi per me. Vi lessi Le mille e una notte e altro, in una casa che era piena di sofà e ragazze ed un qualche amico di mio padre, e ne ricordo la nudità della donna, come di sultane odalische, concreta, certa, cuore e ragione del mondo. Sì, sapevo più che mai com'è fatta una donna a 7 anni, dissi. Più che mai, disse mia madre. Più che mai, dissi io. Lo sapevo e lo vedevo. L'avevo sempre davanti agli occhi com'è fatta una donna. Che vuoi dire? Esclamò mia madre. Ci pensavi? E io, no, non ci pensavo. Sapevo e vedevo. Questo era tutto. Abbastanza, no? Da chi vedevi? Chiese mia madre. E io, da ogni donna. Era molto naturale per me. Non era malizia. Così era. Non era malizia. Ma era la donna, tuttavia. A 7 anni uno non conosce i mali del mondo, non il dolore e non la non speranza. Non è agitato da astratti furori, ma conosce la donna. Mai un nato di sesso maschile conosce la donna come a 7 anni e prima. Essa, davanti a lui, non è sollievo allora, non è gioia e nemmeno scherzo. È certezza del mondo, immortale. Una volta, quando avevo 7 anni... raccontai a mia madre. Una ragazza di amici nostri fu malata e morì. Fu come i tuoi malati, non so se fiera o umile, e io continuavo ad andare nella sua casa. Spesso mi trovavo per lunghe ore vicino al letto di lei. La conoscevo da molto tempo. Essa giocava con me. Mi prendeva sul suo grembo e si cambiava la camicia davanti a me. Mentre era malata, veniva ogni giorno una donna e le faceva l'iniezione, e io ero là. La vedevo come ora ho visto la vedova e la tua amica. Non era la stessa cosa, naturalmente. Non vi era nessuna questione di appetito. Ma un giorno lei mi disse, morirò. E allora? Esclamò mia madre. Niente, dissi io. Come niente? Esclamò mia madre. Era una delle nostre amiche Aladino. Era una bella ragazza. Era una casa di belle ragazze, vero? Dissi io. Sì, raccontò mia madre. Il babbo loro andava e veniva da Malta coi bastimenti della pece greca e qualcuno di loro andava con lui alle volte. Poi una restò a Malta, sposò un orefice, un'altra sposò un sensale e quell'altra morì. Finì mia madre di raccontare e disse: «Ebbene, tu parlavi di quando morì». «L'ho detto», io risposi. «Lei morì e io continuai ad andare in quella casa. Guardavo le sue sorelle invece di lei». «Non ti dispiacque della sua morte?» chiese mia madre. «Non lo so», io dissi. «Vedevo le altre, nude come lei. Non è stato mai più così bello», dissi. «Come?» esclamò mia madre. «Non hai visto donne fatte meglio delle Aladino?» «Non dico questo», io dissi. «E tua moglie?» esclamò mia madre. «Non è nemmeno come le Aladino, tua moglie. Che moglie hai preso?» «Non dico questo», io dissi. «Hai visto molto poco delle donne», esclamò mia madre. «Non dico questo», io dissi per la terza volta. E mia madre disse: «Vieni, ora andiamo dalla signorina Elvira. Vedrai come può essere fatta bene una ragazza a 20 anni». Affrettò il passo e, camminando davanti a me, tra gente, tra capre, nel gran sole rosso che tramontava e in mezzo al glorioso velato di musica delle zampogne, disse ancora: «L'ho sempre pensato che forse i miei figli non avevano mai visto nulla di simile quando faccio l'iniezione alla signorina Elvira». Tommaso Ragno ha letto Conversazione in Sicilia di Elio Vittorini, a cura di Anna Antonelli, Lorenzo Pavolini, Chiara Valerio, regia di Luigi Iavarone. Per scaricare e riascoltare il programma, radio3.rai.it.